te. C'è poco da ridere e il tempo si arrende davanti alle nuvole quando ripenso a te. Io stento a credere che il vento riaccenda le fiamme più piccole quando ripenso a te. Sul punto di smettere, io poi ritorno sugli occhi e resto immobile. Che meraviglia sei. Sentire speciale, tu sai stupirmi amore, come la neve d'estate. Quando ripenso a te mi scappa da ridere, parole le tue che tornano nuvole quando ripenso a te. Sul punto di smettere, io poi ritorno sugli occhi e resto immobile. Che meraviglia sei, io non mi abito mai, come la sete che sento nei giorni di sole e non ci riesce a farmi sentire speciale. Tu sai stupirmi amore, come la pioggia d'estate, e sai sorprendermi come la notte che sale. Quando penso a te, mi sento vivere e il mondo racconta tutte le favole.